Però in realtà è importante, no? In qualche modo è come se facessi un figlio e poi lo dessi a un istituto per crescerlo. E quindi è giusto che io in qualche modo segua il film. La produzione e la distribuzione hanno attivato un sistema di connessione con le associazioni proprio per questo. Questo film è fatto per il pubblico, non è fatto per me. Non è fatto neanche per i genitori stessi. Una delle maggiori paure che loro avevano era quello di apparire come egocentrici, no? Come interessati alla loro persona. E io ho detto che questo era il rischio da correre. Però mi sembra che l'obiettivo è questo e ci siamo abbastanza riusciti per adesso. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Voci in Scena. Ed eccoci ancora insieme con questo appuntamento con Voci in Scena. La seconda voce in scena di oggi è quella di un regista italiano in concorso all'ultimo Festival di Locarno. È nato a Caserta nel 1976. Dopo gli studi di pittura all'Accademia di Belle Arti, esordisce nel 2000 come assistente alla regia per Leonardo Di Costanzo. Nel 2003 gira a Napoli cortometraggi Carta e Scampia. Nel 2004 il suo documentario Il Cantiere vince l'11ª edizione del Festival Libero Bizzarri. Arriva poi il documentario La Baracca su un senza tetto che vive nel centro storico di Napoli. Nel 2007 Il Passaggio della Linea, girato di notte sui treni espressi che attraversano l'Italia, che gli vale il Pasinetti Doc a Venezia. Vince il Torino Film Festival nel 2009 con il documentario La Bocca del Lupo, che vince anche il Nastro d'Argento, il David di Donatello e il premio Vittorio De Seta. Nel 2010 partecipa al film collettivo Napoli 24. Nel 2011 a Venezia presenta due documentari sul cinema. Nel 2015 il lungometraggio Bella e Perduta, la storia vera di Tommaso Cestrone, pastore e volontario che cerca di salvare la reggia di Carditello in Campania, che diventa una favola insieme a una tragedia. Incontra Pulcinella, al quale affida una missione: mettere in salvo un giovane bufalo di nome Sarchiapone. Da lì un lungo viaggio in un'Italia rurale, appunto Bella e Perduta. In attesa di uscire in sala, il film è stato presentato in concorso al Festival di Locarno, dove abbiamo incontrato il regista, la nostra voce in scena di oggi, Pietro Marcello. Bella e Perduta perché è anche la reggia Bella e Perduta. Bella e Perduta è un po' tutto, un po' questo paesaggio che abbiamo raccontato, è l'Italia. L'Italia è oggettivamente Bella e Perduta. Ma la speranza c'è sempre, perché la natura si rigenera sull'uomo. Cioè è l'uomo che si ammala, la natura rifiorisce. Ti posso chiedere qualcosa sull'avventura umana proprio del film? Perché nasce come incontro con Tommaso Cestrone, poi Tommaso muore. E lì a te a quel punto cosa è successo? Ma lì, diciamo, ci si è anche chiesti, perché diciamo Carditello, il Tommaso Cestrone, doveva essere una parte del film, un racconto all'interno del film, perché volevo seguire le tracce di Piovene, di questa inchiesta straordinaria di Piovene. Però poi un po' abbiamo sentito una responsabilità di raccontare questa vicenda, di raccontare questa storia, perché racconti Tommaso, racconti l'angelo di Carditello e poi il bufalo che fine fa? Perché allora attraverso il bufalo abbiamo potuto continuare questa vicenda, questa storia, anche grazie alla scrittura, perché poi ci siamo messi lì tra la scrittura e l'improvvisazione, perché poi era interessante come abbiamo lavorato, perché avevamo un canovaccio e poi lavoravamo direttamente in scena, anche perché quando lavori con attori non professionisti non è che puoi imbeccarli con le battute, diventa tutto abbastanza così, e invece era bello lavorare proprio con loro anche sulla scrittura. Cioè, però a quel punto la scrittura e la struttura necessariamente è cambiata. Certo che è cambiata, ma no, perché riguardo alla storia di Carditello e di Tommaso era tutto vero, cioè, nel senso, tra l'altro Tommaso era anche un pastore, era particolare, diciamo il film è stato girato in pellicola, avevamo dei tempi non nel digitale, che sono i tempi del cinema, e lì dovevamo essere anche abbastanza veloci, perché il documentario ti insegna questo, di montare in camera, cioè di non avere il tempo di dire ok, scelgo un punto macchina e scelgo un altro, devi essere molto molto veloce. È stato anche un film che spesso è stato girato con questa modalità, che è quella dello strumento del documentario, che è cinema lo stesso e dipende dall'uso che ne fai dello strumento. Comunque il film era in pellicola, tra l'altro è stato girato in pellicola scaduta, cioè, spesso era pellicola scaduta, perché è molto difficile preprenderla, è abbastanza complicato. Poi avevamo dei budget molto bassi e visto che abbiamo imparato a girare con la pellicola scaduta, poi girare semplicemente, se avevamo la pellicola a 500 facevamo fare il sensito metrico e giravamo a 64 ASA, perché normalmente la pellicola scende di emulsione. Ma non è l'unico film girato in pellicola scaduta, ce ne sono tantissimi di film nella storia del cinema girati in pellicola scaduta. Per quanto mi riguarda, avrei voluto nascere sulla Luna o in qualsiasi altro pianeta. Altrove, infatti, non sarebbe andata peggio di come è andata qui. Non che il nostro pianeta non vada abbastanza bene, purché si sia nati con un gran nome o con una grande fortuna. Ma questo non è il mio caso. Perché scegliere la figura di Pulcinella e un Pulcinella così particolare? Riguardo a Pulcinella? Ma no, ma perché ha un significato diverso per me, perché richiama la mia infanzia, perché mi ricordo, è nato da lì, perché io sono cresciuto al centro di Caserta, nei pressi della reggia di Caserta, e quando ero piccolino c'era questo personaggio che viveva nel mio palazzo, che era uno che si travestiva da Pulcinella e andava in giro per la città, per Napoli, faceva divertire un po' le persone, viveva di questo, era un personaggio anche molto triste. Triste, era tristissimo perché viveva solo, era anche povero, viveva in questa soffitta, e mi ricordo che una volta lo vidi senza maschera tra le scale, ero piccolino, avevo 10 anni, 12 anni, e mi è rimasta impressa questa figura di questo Pulcinella che poi quando tornava a casa si toglieva la maschera. E da lì chiaramente con Maurizio siamo riusciti a costruire questo personaggio, anche grazie a lui, perché io non, diciamo, mi sono formato sul documentario, era l'unico strumento per fare cinema per me, nel senso è con il documentario che mi sono fatto le ossa. È teatrale, però nel caso di Sergio è una persona che conosco da 20 anni, non potevo avere un attore nel film, perché probabilmente diventava troppo complicato gestirlo, e anche per portare in giro un bufalo così grande, nel senso spesso gli attori non sono disposti a... Ma il bufalo Sarchiapone che fine ha fatto? Ha avuto un vitalizio e potrà diventare un grande stallone, perché è anche molto bello. Cioè, diciamo, il nostro Sarchiapone era destinato a morire e poi grazie al film avrà una vita dignitosa. La reggia ora è stata acquistata, la reggia forse è stata salvata? Ma la reggia è stata acquistata. Il ministro Brai è riuscito, prima di lasciare il suo mandato, di acquistare la reggia di Cardiello. Lui, diciamo, è stato molto coraggioso, perché se si pensa alla storia di quella reggia borbonica, si dice che la mozzarella sia nata lì, poi che con la venuta del regno era una fattoria esempio, perché all'interno c'erano anche molti studiosi di altri paesi. Con la venuta del regno furono cacciati tutti via, e Vittorio con i garibaldini, la reggia di Carditello fu consegnata a un signorotto di Casal di Principe, e da lì fin durante il ventennio divenne una struttura per l'opera della bonifica, perché in quel territorio sono avvenute due bonifiche. La prima bonifica è avvenuta durante con Carlo III di Borbone, e la seconda bonifica fu quella del ventennio fascista. Durante la guerra, era diventata, con la venuta degli alleati, diciamo, era un punto di concentrazione degli alleati prima della battaglia del Volturno, e da quel momento in poi finì nelle mani dell'opera di bonifica del Basso Volturno, e lì pian piano è finita all'asta per debiti vari, e così, diciamo, quel posto fu completamente depredato. Cioè, tutte le scale, i camini furono portati via, perché all'interno ci sono le pitture di Hackert, dei paesaggisti, lì è passato anche Goethe, era un posto straordinario, doveva essere. E fu abbandonato. È estremo quando entri lì dentro che vedi queste pitture di Hackert, del paesaggio che raccontano. è una pastorale che racconta il paesaggio di Carditello, che, e vedi che sono state tutte sventrati questi affreschi, rovinati, incisi, deturpati, ed è stato portato via qualsiasi cosa lì dentro. Questo fa capire anche un po' che cos'è il nostro paese. Cioè, io che sono cresciuto in quel territorio, che sono cresciuto veramente nella bellezza, perché sono cresciuto dietro a Reggia di Caserta, tutta la mia infanzia è stata lì dentro, vedevo bellezza ovunque, oppure quando ero piccolo affioravano le tombe romane ovunque, nel senso è un posto ricco di tutto ciò, ma è l'Italia che è fatta così, perché un luogo come Carditello in qualsiasi altro posto d'Europa diventava un patrimonio importante. Ora vedremo che cosa accadrà. No, il MIBAC l'ha acquistata, ora vedremo che cosa accadrà. Sicuramente il ministro Brai è stato coraggioso ad acquistare questa legge. Io non sono nato su un albero o dentro una comoda casa. Il mio unico tetto è stato il ventre di mia madre. E poi qualche asse vecchia ogni tanto, se ho avuto fortuna. Questa è la mia storia. L'unica cosa che ho, e me la tengo cara. Quando avrò smesso di raccontarla, è perché sarò tornato di nuovo al sicuro, su una di quelle stelle lontane. Ma per ora è ancora troppo presto. Ti sarei chiesto magari come mai in questi anni arrivano tanti talenti dalla Campania, Paolo Sorrentino su tutti, ma non solo. Boh, chi lo sa, forse perché è più forte l'idea del desiderio. E la questione è anche una questione di necessità, che cosa raccontare. Probabilmente, spesso io faccio un paragone con altri paesi, cioè se c'è veramente una necessità, se noi realmente abbiamo una necessità. In Italia abbiamo avuto il neorealismo perché c'è stata la guerra, senza la guerra non ci poteva essere neorealismo. Ieri abbiamo visto un film di Puzziev durante il disgelo e vedevi una necessità di racconto, di raccontare un paese. Oggi vedi il cinema rumeno negli anni passati, che hanno vinto tantissimi festival, facevano film straordinari perché avevano una motivazione forte di raccontare il paese. Probabilmente noi non abbiamo così tante necessità. Nel mondo delle comodità questo probabilmente viene annullato. Probabilmente la spinta sociale, io credo ancora nella lotta di classe, per questo, nel senso, credo ancora nella lotta di classe, credo ancora che nel riscatto ci credo ancora in queste cose, e diventa anche una questione di necessità di raccontare qualcosa. Nel caso di Carditello probabilmente noi siamo le persone più miopi per dare un giudizio di quello che facciamo, perché facendo il film diciamo abbiamo molta difficoltà a guardarlo. Probabilmente per voi è più facile, per me io ho molte difficoltà ad avere un giudizio pieno, e probabilmente il mio giudizio è miope in quel che faccio. Sono una persona più miope per questo. Riguardo alla necessità, dobbiamo cercare una necessità in tutto quello che facciamo, perché sennò diventa una protesi, diventa sterile. Ma è un punto di vista soggettivo, chiaramente. Ed è tutto per questo appuntamento con Voci in Scena. Oggi con noi c'erano Alberto Fasulo e Pietro Marcello. Ancora un saluto da Marta Cagnola.